Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. Do you? Do you? These vagabond shoes along two streets. Prayer. I hate being late. Well, I hate going. Why can't I worship the Lord in my own way? By praying like hell on my deathbed. Homer, they can hear you inside. Relax. Those pious morons are too busy talking to their phony baloney god. On the badly wired electric fans, we dance like replicants. Juice of sweat running down your brow, and a feigned indifference to static when we kiss. All the mica drips under the skin. A few loose cables on the oxalates. Se non capisci la storia, non capisci l'oggi. Se fai la cronaca, racconti delle balle, racconti quello che vedi al microscopio, quando invece ci vuole il cannocchiale. La formazione di un giornalista non è certo facile, ed è per questo che sono contro tutte le scuole di giornalismo. Fanno il contrario di quello che dico io, perché ti insegnano le tecniche, ti insegnano come incominciare un pezzo, come finirlo bene, come mandarlo svelto. Ci vuole invece una preparazione eclettica, e quella te la devi fare da solo, con una cultura che viene dalla storia, dall'economia, e che non impari nella facoltà di giornalismo. È assurdo andarci. È come andare a scuola di poesia. Che impari? Chi ti insegna a fare il poeta? Questo era ancora La fine è il mio inizio, di Tiziano Terzani. Un po' di tempo a questa parte che ci stiamo ascoltando i Ravionettes, ci stiamo ascoltando quello che è il loro ultimo album, e magari c'è anche chi ha avuto la possibilità di andarli a vedere dal vivo. Ravionettes che ci stiamo per ascoltare con Dead Sound, brano che è già passato più volte da queste parti, ma mai in questa versione remix by Peter Holmstrom e Jeremy Scherer, che sta per arrivare. Però prima vi voglio ricordare che questa è la seconda parte del volume numero 1 di Eclettica, la voce che sentite è quella di Giulio Caperdoni tutti i giorni, tra le 19 e le 20 su Rock FM. E che questa seconda parte sia aperta con la cover di New York da parte di Cat Power, seguita poi da The Mods con Metropolis e ancora da Shoo Shoo, che hanno appena chiuso I Do What I Want, When I Want. We'll be right back. people of Springfield, heed this warning. Twisted tail, a thousand eyes, trapped forever! Non ci pensavo due volte. Andare avanti, cercare l'altro, occuparsi di tutto quello che è diverso, uscire dalle righe. Viaggiare per me è stato importantissimo. Importantissimo, questo senso della scoperta. Quella era la mia vita, non mi fermava nulla. E devo dire, la famiglia. Tu lo sai, per me la famiglia era il palo a cui ero legato da un filo di seta, come diceva il poeta bengalese. Ma insomma, c'era anche un'altra cosa. Ero legato, non ho mai tradito la famiglia, mai, nel senso di quelli che perdono la testa e partono con la cantante di Pleiku. Però devo dire che c'era una parte di me che godeva di questo essere, come dici tu, libero. Questo era ancora la fine e il mio inizio. Riding the dawn. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 15, volume numero 1. Indice, Frightened Rabbit, Amina assieme a Lee Hazelwood, Hot Chip, Fidge, Beat the Devil, Nick Cave, Cat Power, The Mods, Shoo Shoo, Ravionettes, Time Space Repeat, Joycat. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.